in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani internazionali. Cominciamo questa volta da Vox Europe, perché come potete immaginare è veramente difficile questa settimana, ancora più della scorsa, trovare delle notizie, in particolare nelle prime pagine dei giornali e dei settimanali, che non riguardino in qualche modo l'epidemia da coronavirus o il cosiddetto Covid-19, cioè il disease dovuto al coronavirus. Quindi ho cercato e mi fa piacere, perché comunque qualche giornale tedesco per esempio se ne è occupato e anche altri media, ma magari nelle pagine interne, tornare sul tema della crisi tra Turchia e Grecia, e quindi tra Turchia ed Unione Europea e tra Grecia e Unione Europea, per la questione dei profughi. Vox Europa ha pubblicato una lunga analisi che si intitola «Presi in ostaggio da Turchia, Grecia e Unione Europea». Vi leggo le prime righe. Il dramma che si sta svolgendo alla frontiera tra la Grecia e la Turchia ha definitivamente seppellito il diritto internazionale umanitario con la benedizione dell'Unione Europea e fornisce all'autocrate turco Erdogan l'occasione di usare i profughi come arma di ricatto e distogliere l'attenzione dallo scontento che cresce nel suo paese. Perché sicuramente sono tanti i temi che appunto solleva questa crisi, dalla quale purtroppo siamo tutti, tra mille virgolette, distratti per via dell'emergenza coronavirus. C'è il dramma delle persone, queste persone che già scappano da situazioni quasi sempre di guerra perché arrivano in Turchia dalla Siria, e poi c'è il dramma di questa Europa che non riesce ad avere una voce politica, e io non sono tra quelle persone che dice l'Europa non c'è, l'Europa dovrebbe farsi sentire. Il problema è molto più, come potremmo dire, strutturale, nel senso che finché l'Europa non avrà davvero un ministro degli esteri che può parlare a nome di tutti i paesi, è inutile invocare l'Europa. L'Europa potrà a volte imporre sanzioni o muoversi attraverso i paesi magari più forti, come aveva fatto Angela Merkel che con la Germania aveva delineato il piano di aiuti a Erdogan economici perché trattenesse i profughi dalla Siria. Ma dire l'Europa non c'è perché non ha un ministro degli esteri, non ha un ministro della salute, come stiamo vedendo in questi giorni, e sostanzialmente ha un Parlamento che non legifera, o meglio, che legifera ma che fa leggi che non sono innanzitutto su quegli argomenti che poi veramente devono essere convertiti nei parlamenti nazionali. Quindi ancora una volta la crisi tra Turchia che si sta svolgendo al confine tra Turchia e Grecia, come ben sottolinea Vox Europe, mette in evidenza l'urgenza di fare una riforma delle istituzioni europee. E mi fa piacere anche, voi sapete che sono mezza tedesca, quindi da una parte cerco a volte di capire la durezza con cui i tedeschi ci vedono, e dall'altra naturalmente, e parlo la mia metà italiana, sono persino indignata per la superficialità dei giudizi, e per una volta però soprattutto sui quotidiani più seri come la Süddeutsche Zeitung c'è un grande elogio del tentativo che l'Italia sta facendo in modo democratico, a differenza naturalmente di quello che è stato fatto in Cina, di mettere in atto misure veramente importanti, lo sappiamo tutte, le stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle, dalla chiusura delle scuole alla chiusura, prima si è passati alla chiusura, dalla chiusura delle scuole si è passati alla chiusura soltanto di alcuni esercizi commerciali, poi alla chiusura totale di tutti gli esercizi commerciali tranne quelli cosiddetti di prima necessità. Quindi a questo coraggio, a questa scelta presa appunto in trasparenza e con metodi democratici, non lo sottolineeremo mai abbastanza, la Süddeutsche Zeitung dà conto all'Italia. Una delle tantissime conseguenze della pandemia è la cancellazione di campionati sportivi, e purtroppo in questo, a differenza di quello che ho appena detto per l'Italia in generale, per il governo che ha in questo momento l'Italia non ha dato un buon esempio, e mi riferisco al calcio che ha tentennato fin troppo, per carità sta succedendo anche in altri paesi, ma questo non è una buona scusa, e ci sono naturalmente anche tutti gli spettacoli. negli Stati Uniti ha fatto molto effetto, lo racconta il New York Times, la sospensione della stagione, la sospensione dei musei, quindi per esempio il Metropolitan, che è uno dei musei più visti, più frequentati, tra l'altro in quasi tutta le sue collezioni è gratuito. Verrà chiuso, verranno sospesi tutti gli spettacoli a Broadway e naturalmente tantissimi altri tipi di spettacoli. Sui raduni elettorali c'è ancora poca chiarezza, ma è un altro discorso. Le Figaro invece ha ospitato un'intervista al presidente del Festival di Cannes. Il Festival di Cannes si svolge in giugno, ci sarà una conferenza stampa a metà aprile, si è detto ottimista, dice che in aprile la situazione migliorerà, Pierre Lescure l'ha dichiarato alle Figaro, naturalmente io capisco che chi organizza un festival così importante, che appunto nel giorno in cui finisce già impegna gli organizzatori all'edizione dell'anno successivo, capisco che speri in una soluzione, non so quanto sia giustificato questo ottimismo, comunque vedremo. Invece un paese che dovremmo guardare con tanta attenzione e anche preparandoci a fornire degli aiuti è il Venezuela. Due giorni fa il presidente Maduro ha dichiarato l'emergenza nazionale perché probabilmente solo adesso viene fuori, ma sono giorni che ci sono casi di coronavirus anche in Venezuela. Il problema del Venezuela è che è un paese in profondissima crisi economica, mancano nelle farmacie, mancano anche i cerotti, penso, quindi vi lascio immaginare in che stato sono gli ospedali. Il Venezuela ha ricevuto aiuti da tanti paesi confinanti, ma ovviamente in caso di una eventuale crisi, emergenza sanitaria, la situazione sarebbe ancora più grave in Venezuela che altrove. Tra l'altro in Venezuela continua, per questa difficilissima situazione economica e anche politica, continuano anche i blackout, quindi per definizione i reparti di terapia intensiva o di rianimazione devono avere a disposizione un'elettricità costante e in Venezuela non ci sono neanche i gruppi di emergenza, quindi è tutto, sono appunto paesi dove ci saranno, se questa pandemia, perché purtroppo questo virus non ha il passaporto, non ha preferenze politiche, non vota per alcun partito, non ha nazionalità, purtroppo è arrivato anche in Sud America e quindi monitoriamo con attenzione la situazione anche lì. Tra le cose che sono state rimandate ci sono anche i negoziati sulla Brexit, avrebbero dovuto ricominciare il 18 di marzo e si è saputo dal Times, ma da tanti altri organi di informazione britannica, quelli del 18 marzo sono sicuramente slittati e poi a data da definirsi, perché nel Regno Unito, tra l'altro, la gestione della pandemia ha ancora degli aspetti diversi da quelli per esempio di Francia, Spagna e anche Stati Uniti, e quindi anche lì in questo momento l'attenzione di Boris Johnson e di tutti i suoi collaboratori più stretti e del suo governo è concentrata lì, non sulla Brexit. Vi segnalo, per cambiare argomento, un articolo un pochino più leggero, insomma, che trovate su Internazionale di questa settimana, quello in edicola da ieri, è stato tradotto dal settimanale Zeit, il settimanale tedesco, e si intitola Il prezzo del tradimento, siti per incontrare potenziali amanti e aziende che offrono alibi o smascherano gli adulteri. Su internet sta fiorendo questo nuovo, aggiungo io, triste business. Pensate che per esempio per avere una certificazione credibile, poi vorrei sapere se è così facile crederci, per il partner che si ha un corso di formazione bisogna pagare su alcuni di questi siti, queste società, 299 euro. L'ultima segnalazione che vi faccio è la copertina dell'Economist di questa settimana, che è intitolata The Politics of Pandemics, quindi la politica delle pandemie, e prende in esame appunto come gli atteggiamenti, in particolare di Donald Trump e di Boris Johnson, che fresco di una elezione in cui ha trionfato, si vede un po', questa è un po' la tesi dell'Economist, vede messa già in pericolo questa luna di miele con i suoi elettori dalla crisi del coronavirus. Spesso, benché a parole dicano ci faremo guidare soltanto dalla scienza e dagli scienziati, poi in realtà le decisioni su una crisi che riguarda la salute di tutti sono in realtà politiche e possono essere quindi sagge o meno sagge. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.